cosa nella mano. Senza sapere quante ne ho fumate, meglio che non le contiamo. Come non contare quelle volte che diciamo, mi sono visto fermo pure quando mi spracciavo. Parlare e riparlare delle stesse cose, con il mio corpo che sta lì ma la mia testa vaga altrove. Il freddo che c'ho dentro non lo posso raccontare, è forte il pericolo ti possa gelare. La lingua non si muove soffocando l'urlo, crea un eco che trafigge le mie tempie con suo urto. Bevo l'ennesimo bicchiere mezzo vuoto, rovescio di medaglia per chi gioca con il fuoco. Sotto questa testa c'è tempesta dei rimorsi, ma strappano su dure e delicati come morsi. Io ci faccio l'abitudine, sperando solo che il dolore non divenga un'attitudine. Scrivo, più distante che posso da tutto questo casino. Il mio pianto di sangue è solo un piano evasivo. La mia voce si perde dentro al mio respiro. Vedo il giorno morire, io resto vivo. Un giorno vorrò leggere questo mio testo, ma non so che penserò, non so come sarà il contesto. Spero di realizzare che la vita che sa togliere è la vita che sa pure dare. Io pretendo del coraggio per le nuove situazioni, affrontando dei quesiti ma trovando soluzioni. Preso per la gola dalla vita, non voglio più sopprimere nessuna delle mie emozioni. Io ti scrivo questa lettera su pagine di nuvole, ma dopo una parola sembrano già così ruvide. Quindi ritraggo la mia mano, non sai quanto mi costa provarci, vedere che è invano. Piano, respira, esistono dei limiti. Sai com'è che lo impari solo a lividi. Me ne sto qua ad invocare chi disegna il fato, sperando che mi ascolti e non mi lasci senza fiato. Scrivo, più distante che posso da tutto.